s'accorge tutto quello che succede, ma sta lontana e ti fa sentire come conosci. Chi te nomma lo sai, porta una croce. No mare, cammina cavo casa lata, chi te no mare, o sabe ca, e fesse contento, chi te no mare, sai, non te we'll be right back.